Ciao a tutte. Vorremmo parlarvi di una cosa che riteniamo importantissima perché, è la base di tutta una serie di considerazioni che riguardano il femminismo storico e il femminismo all'attualità. E in particolare abbiamo intitolato questo podcast Il patriarcato, questo sconosciuto. Perché? Perché diciamo che il patriarcato, il termine patriarcato adesso viene usato con sistematicità da tutte e da tutti quando si parla di oppressione delle donne, oppressione sulle diversità, in svariatissime occasioni collaterali e anche quando si parla della guerra, no? Perché, per esempio, abbiamo sempre detto, ma viene detto in tanti modi, comunque, per esempio, la militarizzazione, cultura dello stupro e via discorrendo. Ma che cos'è il patriarcato? In effetti lo si sa veramente? Cioè, viene concepita come un'entità che si aggira per il mondo seminando sopraffazione e violenza o è qualcos'altro o qualcosa di più addirittura? Perché, secondo una pratica che ci accompagna da tanti anni, insomma, è una pratica femminista in effetti, quando pensiamo di dover capire qualche cosa, parliamo con le donne, ci focalizziamo su quello che dicono, facciamo domande o comunque prestiamo attenzione a cosa pensano. E quindi anche rispetto a questa cosa del patriarcato, se ci è capitato di parlare con una donna qualunque e abbiamo chiesto che cosa si sapeva o se pensava o cosa pensava che fosse il patriarcato, ci ha risposto di solito, la maggior parte ci ha risposto di solito che è la pretesa degli uomini di comandare sulle donne. Esatto, quindi chiedendo anche a delle ragazze così casualmente più giovani cosa pensassero, nella maggior parte dei casi dicono che è un sistema culturale, politico, che ovviamente sfocia anche sull'economico per la questione, no, della disparità salariale o perché comunque per le donne è più difficile lavorare. Però sono tutte motivazioni che adducono tendenzialmente alla sfera culturale, quindi sempre la differenza uomo-donna, della società, maschio-femmina, e quindi non c'è una visione, diciamo, molto politica di quello che sia il patriarcato, cioè è un po' come stava dicendo Eli, appunto, è qualcosa per cui ci dobbiamo appunto ribellare al maschile. Diciamo, nella modalità più bellica del termine, oppure che è visto in termini di disparità tendenzialmente, cioè una società che non è equa nei confronti della parte femminile. E quindi ovviamente poi possiamo sentire molto spesso espressioni quali: ma il patriarcato non esiste più, perché la parità ce l'avete più o meno. Cosa che Ecco, anche, insomma, anche insomma, lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo, un però altro capitolo intero. sì. Poi però se lo chiediamo a una che si ritiene femminista impegnata politicamente, ci sentiremo dire che il patriarcato è la pretesa superiorità maschile e si trova in ogni ambito della società e quindi è strutturale. Allora, prendiamo anche le parole di una femminista storica come Monique Wittig come riferimento, no? Perché chiaramente tutte le femministe più o meno hanno parlato del patriarcato, però Monique Wittig dà una definizione che è molto conosciuta e che circola tantissimo. Che dice che il patriarcato è un regime politico e un sistema sociale basato sullo sfruttamento delle donne da parte degli uomini e fondato sull'eterosessualità obbligatoria. Allora, tutte queste risposte che abbiamo avuto, che abbiamo cercato, abbiamo avuto e che abbiamo incasellato a seconda anche del tipo di donna che ci siamo trovate davanti, sono in effetti, sono tutte vere, Sì, in no? parte sì, sono un pezzo della verità. Sono un pezzo della verità. Ci raccontano però quelle che sono le conseguenze del patriarcato, cioè sono le conseguenze che il patriarcato provoca, ma nessuna dice che cosa sia in effetti il Sì. patriarcato, no? Perché se nessuna dice, nessuna si pone il problema di che cosa sia il patriarcato, ma combatte soltanto le manifestazioni, le conseguenze, le manifestazioni più eclatanti, succede che le soluzioni che vengono richieste o proposte siano tutte di tipo culturale o di ricerca di E diritti. questo è un po' il problema di massima che abbiamo tirato fuori da sempre, da quando esiste, credo, la coordinamenta, su proprio il tipo di impostazione delle battaglie, un po' il discorso che viene fuori quando diciamo che appunto l'emancipazionismo ci piace, ma non è nel nostro obiettivo e non è quello a cui puntiamo. Quindi anche il decidere che parlare solo di soluzioni senza analizzare chi è il nemico, quindi chi è il patriarcato, ci porta lontano in realtà anche da soluzioni politiche e ci dà solo Esatto. soluzioni, diciamo, che sono più di pancia e che sono, diciamo, delle toppe che sono pure un po' strette. Giustissimo. Infatti per questo è importante chiarire cosa sia il patriarcato e soprattutto come funzioni, perché altrimenti noi finiamo per lottare solo contro le conseguenze, per lottare sempre in emergenza. Per esempio, e non mettiamo mai le premesse per smontare, cioè smontare i principi su cui è incardinato e smontarlo dalla radice. Perché è importante questo? Per evitare che si reimposti, perché noi veniamo da tutta una storia in cui sistematicamente il patriarcato si è reimpostato in altre vesti e bisognerebbe evitare proprio che accada questo, perché in effetti è quello che sta accadendo in questo momento storico, che il patriarcato, proprio quello che diceva Noemi prima, che la gente poi, non parliamo dei maschi che stanno prendendo una deriva assurda, che cominciano a dire le donne hanno tutto, hanno la parità, hanno raggiunto cosa Esatto. vogliono, no? Ecco, allora, proprio per evitare questo, anche perché il movimento femminista, noi non ci dobbiamo dimenticare mai che è un movimento politico, quindi non è un movimento che vuole diritti, no, o meglio, se vengono, come diceva Christine Delphi, a ricaduta fanno comodo, non è che una rifiuta l'emancipazionismo perché a ricaduta delle lotte che abbiamo fatto finora è venuta fuori questa cosa. Però bisogna vedere sempre dove para e come viene usato. Allora, infatti il problema di fondo è che proprio perché il patriarcato è misconosciuto, questo apre tantissimo a una rivalsa del maschile, di cui parleremo poi più avanti, ci riproponiamo di fare anche delle puntate su questo, che è assolutamente diciamo fuori posto come prima cosa, ma poi anche pericolosa. Allora, il patriarcato è abbondantemente studiato in tutta una serie di studi antropologici, Sociologici. sociologici, cioè anche prima del femminismo. Non è che il patriarcato non è stato studiato ad essere manca prima del femminismo. Però che cosa succede? È il femminismo degli anni 70 che ne ha dato una visione e una lettura politico-economica che ha cambiato completamente la lotta femminista. Cioè la lotta femminista prima degli anni 60-70 era una lotta di fatto emancipazionistica. con tutto quello che si può dire di bene dell'emancipazionismo di quegli anni, perché era un tipo di lotta che si contrapponeva a uno Stato e a un sistema di potere che non aveva nessuna intenzione di fare nessuna concessione. Anzi, mi ricordo una nota che ha fatto Noemi tempo fa su un femminismo emancipazionista di tipo diverso che c'è stato anche quella volta. Sì. Sì, perché praticamente ci sono state le femministe che lottavano soltanto Ah, per il sì. voto. Esatto, cioè praticamente mi sono ricordata dagli studi che le Pankhurst, quindi Emmeline, che è stata una delle figure delle suffragette inglesi più di spicco, in realtà si accordò con i politici per sospendere la sua campagna per il voto alle donne. Per far sì che il suo gruppo di donne sostenesse l'entrata in guerra dell'Inghilterra. Solo una delle figlie si ribellò a questa cosa, fondando insomma altri gruppi di donne che erano appunto per il suffragio delle donne e che però sosteneva assolutamente una posizione antibellicista e di sostegno soprattutto appunto alla patria in Certo, guerra, sì. perché faceva tutta un'analisi appunto economica, Certo, di sociale, classe. di classe, di che cosa significa appunto nella prima guerra mondiale, cosa significasse entrare in guerra. E ci sono anche una sua corrispondenza con Lenin in cui discutono di delle cose. La cosa divertente è che comunque lei ha una posizione femminista, appunto, non so se si può definire proto-femminista o magari non so bene se c'è un modo per etichettarla, visto che è ancora un femminismo di tipo emancipazionista, visto che siamo negli anni 10 del Novecento. Però lei già sentiva l'esigenza di criticare comunque anche Lenin, sostenendo appunto che in quello che veniva espresso mancava comunque il pezzo diciamo, del femminismo, che non era chiamato femminismo, però c'è una discussione che comincia a germogliare. Sì, a formarsi, Sì, ecco, a esatto. mettere le premesse. Sì, e infatti, allora, rispetto a il patriarcato come evoluzione, sono interessantissime le letture di Silvia Federici e Leopoldina Fortunato, il grande Calibano, che non so se c'è qualcuno che non l'ha letto, ma se c'è qualcuna che non l'ha letto, vada sul nostro blog nei testi e lo legga, perché bisogna che lo leggano assolutamente. E anche il Calibano e la strega di Silvia Federici, però il grande Calibano è pa particolarmente esemplare. E anche l'ultimo di Silvia Sì, Federici, Oltre tutta la la periferia periferia della della pelle, pelle. è molto interessante sull'analisi del patriarcato. Allora, però, che cosa succede? Che alla fine, più o meno degli anni 60, sulla scorta delle analisi marxiste e del materialismo storico, del materialismo dialettico, viene impostata dal femminismo materialista francese un'analisi del patriarcato e quindi un'analisi dell'oppressione delle donne, tant'è vero che si passa da quello che viene da quella che viene definita una questione femminile che riguardava prima degli anni 60 uomini e donne sensibili per l'uguaglianza delle donne nella società, diventa l'oppressione delle donne. Perché? Perché viene analizzato il patriarcato come modo di produzione. Allora, che cos'è il modo di produzione patriarcale? La prima che ne parla in questi termini è Christine Delphi, è una femminista materialista francese che praticamente ha fatto il primo articolo sul patriarcato nel 1970, quindi siamo, parliamo, ed non è stata mai tradotta in italiano fino al 2022. Quindi c'è anche una, diciamo, voluta, fra virgolette, dimenticanza di tutta una serie di analisi politiche fatte dal femminismo sull'oppressione delle donne, no? C'è anche una tendenza a trascinarla sempre sul sociologico, sull'antropologico, sul culturale, no? Sì, e poi effettivamente questa cosa del trovare sempre esclusivamente determinati nomi di femministe tradotte e non altre è comunque una volontà in realtà di mandare la discussione femminista in un certo modo, Certo, perché ormai incanalarla. cioè, si trovano tanti libri di tante altre autrici e invece della Delphi nulla. Ecco, appunto. E quindi lei parla del modo di produzione patriarcale. Che cosa vuol dire? Lei lo ha analizzato prima del capitalismo, cioè il modo di produzione patriarcale è un modo di produzione in cui la linea gerarchica è maschile per il mantenimento dei beni, che siano il feudo, che siano la terra, che siano i possedimenti. In cui tutti i membri del gruppo, vale a dire i fratelli cadetti, i figli dei fratelli, le famiglie dei figli, i servi e le famiglie dei servi, sono legati al referente del clan da un rapporto di mantenimento in cambio del lavoro gratuito. Questo perché? Perché in questo modo si manteneva il bene, si sosteneva il bene e la trasmissione patrimoniale avveniva per via della primogenitura maschile. Quindi è un tipo di modo di produzione che non investe soltanto le donne, investiva, è proprio un tipo di rapporto produttivo. Questo tipo di rapporto produttivo cambia, viene modificato e cambia quando si instaura man mano, perché questo tipo di cambiamenti non sono mai dall'oggi al domani, dal giorno alla notte. Il modo di produzione capitalista. Perché il modo di produzione capitalista ingloba, cioè prende il patriarcato e lo modifica a suo uso e consumo, perché a seconda delle sue esigenze. Cioè dalle enclosure di cui parla Silvia Federici al lavoratore salariato, quindi che è costretto a accettare il rapporto subordinato in cambio che vende le proprie braccia, la propria forza lavoro, ha bisogno che il lavoro riproduttivo e di cura venga fatto dalla donna, dalla moglie, Ma anche dalla il compagna. cambiamento della struttura familiare, in questo Certo. viene ripreso dal capitalismo, perché ovviamente il patriarcato c'era anche nelle famiglie contadine allargate, che però avevano comunque diciamo, diverso approccio spesso a questa idea di patriarcato, e ovviamente con le famiglie mononucleari questa cosa si acuisce molto di più, perché comunque sono appunto, come per il lavoro, anche all'interno della famiglia c'è qualcuno che deve occuparsi del lavoro di Certo, riproduzione e di cura. il lavoro riproduttivo è di cura, tant'è vero che mi pare nel Grande Calibano ci sia un passaggio in cui si dice che mai come nel capitalismo il maschile è stato tanto maschile, il femminile è tanto femminile, cioè i ruoli sono stati così codificati, perché i ruoli uomo e donna sono dei ruoli sociali, cioè non c'è niente di precostituito, non c'è niente di naturale, no? Sono ruoli sociali. Allora, perché è importante parlare del patriarcato in questi termini? Perché essendo il patriarcato un modo di produzione, per scardinarlo, bisogna andare alla radice del suo funzionamento. Non si può pensare di cambiare qualche diritto, qualche modalità, o oltretutto chiedere attenzione alla parte maschile, cioè la parte maschile deve cambiare perché deve essere più buona, fra virgolette. Avete mai provato a un capitalista a chiedergli di essere più buono? Cioè, non lo so, Sì. o di non fare la guerra. Che è diverso dal dire voglio lasciare a testimonianza e a memoria per future generazioni che l'essere maschile, inteso in senso generale, può essere altro. Cioè, che appunto è l'approccio di prima, cioè nel senso se maschile e femminile sono strutture sociali imposte dal patriarcato e dal capitalismo perché sono funzionali al sistema produttivo, allora ok dire alla parte maschile guardate che funziona così, così, così ed è una struttura e tu puoi rompere questa struttura perché puoi rompere il sistema capitalistico e patriarcale in questo modo, sovvertendolo. Un conto è dire questo e Certo. quindi in qualche modo diciamo insegna al maschile anche a rompere diciamo quello che è il suo ruolo. Però c'è differenza invece nel dire ti insegno ad essere un maschio più femminista, cosa che mi fa rabbrividire, o un maschio migliore. Esatto. Oltretutto c'è anche un problema di fondo che chi detiene il potere, questo vale sempre. È difficilissimo, cioè praticamente impossibile che lo molli, no? Allora è inutile dirgli che si deve comportare in un modo o si deve comportare in un altro, valgono soltanto i rapporti di forza. Certo. Cioè, se noi riusciamo a impostare una lotta, perché la lotta femminista, essendo il femminismo un movimento politico, lottando per se stesse. E partendo dalla nostra oppressione, noi cercando di scardinare quelli che sono i momenti nodali del funzionamento di questa società, lavoriamo per tutti, non è che lavoriamo soltanto per noi. Infatti, uno dei problemi dell'emancipazionismo è quello che si è tradotto in un lavoro categoriale. Esatto, che poi è quello che secondo me dicevamo anche prima nelle risposte che ci sono state date chiedendo secondo te cos'è il patriarcato. È un po' questo, se il patriarcato rimane attaccato alla definizione di maschio-femmina e basta, diventa una categoria Certo. e quindi riguarda solo un pezzetto. E invece no, essendo un sistema riguardando la produzione, l'ordine di produzione, e riguardando il sistema capitalistico, riguardando tutto ciò che in realtà è al nucleo di questa società in cui viviamo e quindi è contraria a quello che è il femminismo, allora diventa una struttura molto più forte e che può essere scardinata in realtà nell'insieme. Certo. Allora, il capitalismo quindi ha piegato il modo di produzione patriarcale ai propri interessi, no? Lasciando incardinata nel lavoro gratuito in cambio del mantenimento la parte femminile. Questo è vero per tutta una serie di anni, fino alle lotte degli anni 70, dopodiché comincia a incrinarsi perché le lotte femministe fanno sì che lo Stato e il sistema di potere apra all'emancipazionismo. Allora, prima di tutto ricordiamoci sempre che il capitalismo è un sistema produttivo, quindi ha la capacità e l'interesse a inglobare anche altri modi di produzione. Però questi modi di produzione, appunto come quello patriarcale inglobati, vengono piegati alle proprie esigenze. Quindi noi perché facciamo questo discorso e lo riteniamo molto importante? Perché adesso bisogna vedere come si sta evolvendo questo rapporto patriarcato-capitalismo e come il capitalismo avrà intenzione di usare il patriarcato. Perché adesso siamo in un momento di passaggio. L'emancipazionismo, l'apertura all'emancipazionismo ha creato una situazione di passaggio. Allora, Per esempio, nel comune sentire adesso è passata abbastanza la consapevolezza, anche se rimane moltissimo il concetto di naturalizzazione dei ruoli, perché il fatto che la donna sia quella che fa i figli, che se ne deve occupare, il senso materno, eccetera, è ancora rimasto tantissimo. Però, è passato molto che il lavoro di cura e riproduttivo sono lavori estorti gratuitamente. Questo Questo è è passato, sì. passato abbastanza. Poi è passata anche abbastanza, soprattutto nel femminismo, è stata acquisita l'idea che l'uomo e la donna sono due ruoli costruiti, anche questo è passato abbastanza, anche se appunto, come dicevamo, è più una consapevolezza di tipo culturale piuttosto che un fatto percepito come strutturale veramente. Il problema vero è che il lavoro, il modo di produzione patriarcale, per esempio, nel secolo scorso Engels aveva fatto un'analisi della donna, della condizione della donna, della famiglia, e aveva preconizzato che col lavoro all'esterno, cioè con l'emancipazione, con l'indipendenza economica, il patriarcato, l'oppressione della donna, l'oppressione della donna sarebbe venuta meno, cosa che non è vera assolutamente. E quindi questo ci fa capire che non è il lavoro all'esterno. Il nodo del modo di produzione patriarcale è lavoro gratuito in cambio di mantenimento. Come si colloca da adesso in poi il problema dell'estorsione del lavoro di cura e del lavoro riproduttivo che ci viene ancora estorta? Come si colloca il patriarcato rispetto al lavoro retribuito? Come si colloca la differenza tra la condizione dell'uomo e della donna in un momento di passaggio come questo? Come sta usando il patriarcato, il capitalismo in questo momento? Allora, queste sono tutte domande che noi man mano vogliamo portare avanti in altre puntate, ma sono fondamentali per non lavorare contro noi stesse, perché c'è una tendenza, per esempio, adesso a considerare lavoro gratuito in cambio del mantenimento assolutamente assente, no? Cioè, certo, c'è il lavoro riproduttivo e il lavoro di cura, eccetera, ma nella generalità dei casi non esiste lavoro gratuito in cambio di mantenimento. Non è vero, perché, per esempio, nel mondo digitale noi lavoriamo sistematicamente in maniera gratuita in cambio delle reti che ci danno. Quindi cerchiamo di non vedere soltanto il problema maschile e femminile al di fuori del percorso politico-economico di questa società, ma di usarlo per scardinare il meccanismo del capitalismo. Di questo. Sì, perché questa cosa del lavoro gratuito in cambio di qualcosa in realtà ha pervaso in realtà ogni singolo pezzo della società e anche quello che ci vendono come comunità, come fare qualcosa per la comunità, lo sbatterci per ogni singolo elemento che ci si pone davanti, il fare associazionismo, il fare volontariato, tutto questo perché lo Stato, il potere, insomma, tutto quello che volete, non ci dà quello che c'è, quindi te lo fai da solo. In cambio di, non so, il parchetto, Sì. è in questo sistema io lavoro gratuito, però lo faccio per, che poi è un po' quello che le madri hanno sempre fatto, io lo faccio, però lo faccio per i miei figli, Certo. e poi non prendo niente, vengo mantenuta nei miei bisogni materiali basici. E quindi anche quella dei dati, appunto, come diceva Elisabetta, è molto importante, rientra in questo di vendere dati importanti a chi poi ci lucra sopra. È un lavoro gratuito che facciamo sistematicamente tutti i Assolutamente, giorni. perché ci peserebbe troppo In anche non cambio, stare là, sì, no? in cambio di una rete, di un dispositivo, di una cosa di questo tipo. Perché bisogna cominciare a ragionare come modo di produzione patriarcale, modo di produzione capitalista, in termini socio-economici, politici e non soltanto di contrapposizione di sessi, insomma. Assolutamente. Allora, la prossima volta vorremmo parlare del lavoro riproduttivo di cura e del lavoro all'esterno in quest'ottica di modo di produzione patriarcale, lavoro gratuito in cambio di qualche altra cosa, non denaro e non una volta era il mantenimento, adesso vediamo cosa sarà. E poi una puntata particolare sulla violenza sulle donne, proprio impostata sempre in quest'ottica socio-economica, perché altrimenti diventa attualmente incomprensibile. Grazie a tutte, ciao. Grazie, ciao.